4 mattino. Eccoci qui, 8, 19 minuti, 04 secondi, le vostre chiamate all'800 24 0024, i vostri messaggi di navigazione al 349 238 6666, la splendida silhouette di Oscar Giannino si staglia negli studi di Milano e attenzione, attenzione, oggi ha la camicia rossa. Mamma mia. Mamma mia. Perché te la sei messa? Vabbè, ma io ve la metto, ma non è per cronaca. Essere addita. Io capisco che anche tu la identifichi come un segno di criminalità incipiente, questa bandiera. Però adesso... No, ma può essere un retaggio garibaldino. Un retaggio garibaldino. Ho tenuto per te un pezzo della verità contro, ecco, Dylan Dog. Mamma mia. Perché nell'albo di questo mese, sì, La fine dell'oscurità, c'è un corteo di manifestanti che manifestano a favore della famiglia naturale e Dylan Dog dice perché ci sono questi idioti bigotti e la verità si è arrabbiata, capito? Sì. Ecco, ho capito. No, io quello che non capisco è perché la verità sia così strapiena di questi messaggi di irredentismo integralista, però va bene, ognuno fa il giornale che crede. Bene, è bello perché il mondo è bello perché è vario. Non c'è dubbio. Senti, ma però voglio dire, io ti segnalo che invece dopo il comizio in chiesa a Pestum di Renzi, oramai è un trend, dilaga, le chiese sono diventate e quindi anche a Palermo, Orlando e Micare hanno comiziato in chiesa. Delle due l'una. Però qui il parroco era troppo devoti o invocano i santi per avere i voti, io dico la seconda. Ma qui il parroco era d'accordo però, eh? No, ha chiesto scusa. Infatti alla si fine è arrabbiato però, il vescovo. Esatto, perché come fai a chiedere scusa alla fine? Sei nelle fotografie a fianco del comizio. Roba da matti, ma è una fotografia molto bella che la dice tutta. Perché hai Orlando, Micari e poi questo sacerdote con i paramenti. Quindi sembra proprio una funzione così. No? Tipo i cappellani militari c'erano un tempo. Invece giusto? Che adeste fideles, votate fideles. Bene, e che cosa pensi del patto dell'arancino? Del patto dell'arancino penso che da quello che ho letto. Sentiamo lo sto patto dell'arancino. No, tu vai, tu inizia a dire. Io dico solo che dal racconto di questa complicata messa in scena di Berlusconi che arriva tardi con l'occhio torvo, Salvini che dice sono un caffè e poi si ferma, Giorgia Meloni che almeno è la migliore dice no, dai, sarò qua ad aspettare fino a che questi due non si degnano. Mi sembra che la cosa non sia tutt'altro che fatta nel centro destra, sentiamola. Questo patto dell'arancino, come è stato qui soprannominato, speriamo possa essere consolidato dalla vittoria di Nello Musumeci. Direi che possiamo essere ottimisti. Pierluigi da Piacenza. Eccoci. Ma buongiorno, sei Bersani buongiorno. Oppure no, da Piacenza è un Pierluigi. Sono Pierluigi da Piacenza, sono quasi conterraneo di Bersani. Bene, vai. Buongiorno. No, allora, volevo fare un intervento su un argomento che ormai è di moda, che in pratica sono le pensioni e il cosiddetto periodo e ho lavori usuranti. Per come si sta trasformando e come si sta evolvendo il mercato del lavoro, è usurante anche il fatto di rimanere aggrappati a un lavoro senza avere speranza di un futuro a lungo termine. E vi garantisco che a 50 anni mi sta capitando, mi è capitato, ma io non mi faccio la testa, lo può essere, lo diventa, si somatizzano questi fenomeni. Successivamente io voglio veramente immaginare, capire come un'azienda possa tenersi migliaia di ultra sessantenni che hanno comunque, per forza, ma anche per problemi fisici o mentali, psicologici, ridotto la loro verve e la loro capacità di innovarsi. Il mondo si evolve velocemente. Io veramente faccio fatica a capire un futuro per queste persone, fra cui me, perché prima o poi si spera di arrivarci tutte. Allora, molto chiaro, so che su questo Oscar, che ha anche sospirato, se lo avete sentito, soffre e quindi per pluralismo do lui la voce. No, hai sofferto. C'è poco da fare, cioè l'insistenza ossessiva di partiti e sindacati per i prepensionamenti, ossessiva anche i media sono in prima fila e così via. Viva la mia risposta, viva Carlo Padoan che ieri ha ricordato a tutti i numeri, i numeri ai quali partiti e sindacati sono indifferenti, perché proporzionale significa più deficit previdenziale, significa più ingiustizia contro i giovani, più ingiustizia verso i poveri veri, perché continuiamo a squilibrare il welfare che è già per 2/3 solo a sostegno dei pensionati, e lo squilibriamo ancora levando ancora più risorse verso chi è povero. Quindi questa storia di continuare a dire ma a 60 anni si crolla, è sfruttamento schiavistico, è una tenace difesa di un privilegio che non abbiamo più i numeri per sostenere, capite? Cioè è giusto accettare l'idea che aumenta l'aspettativa di vita, aumenta il periodo di versamento. Ma già aumentavano per uno scatto automatico, però Anna Maria da Bari, ascolto Radio 24 per l'irriverenza di Oscar Giannino. Senti, lo sapevi che in 2500 si vogliono costituire parte civile al processo per il risarcimento di Etruria? Sarà una specie di esercito, non entro neanche in aula. Beh, ma infatti leggo che Mariana Boschi sarà candidata altrove alle elezioni, hai visto, no? Sei malizioso? No, io non sono se malizioso. Uno più uno fa due. Ma certo che è per questo, che se si candida a casa sua, penso che potrebbe essere una campagna in cui tutti problemi gli altri di ordine pubblico. No, ma tutti gli altri partiti ne approfittano. Lasciami dire che ieri la giornata alla commissione d'inchiesta parlamentare per andare a questioni altro sì, per pensionati, esatto, è stata, secondo me, veramente ci no, sarebbe cioè, molto da discutere. Ecco, traduciamo. Primo, in una commissione parlamentare d'inchiesta su non può esaurire l'incontro con i rappresentanti di Banca Italia e della Consob in una mattina e un pomeriggio. Ci vorrebbero sessioni, consentendo a tutti i commissari di fare domande precise per ogni vicenda, mentre lì sono autodifese, punto. Quindi questa cosa significa che quella commissione parlamentare d'inchiesta è incardinata e svolge i suoi lavori in una maniera che, perdonami, è inaccettabile. Ciò nonostante, la Consob accusa Banca Italia, non ci informava, non è una cosa da poco. Nonostante, la Consob accuserà Banca Italia, ma quello che ha detto Banca d'Italia non torna da molti punti di vista. Oggi i giornali italiani prendono un po' sotto gamba, per esempio ciò che abbiamo appreso ieri da Bloomberg. Allora, che i media italiani prendano piste da Bloomberg, perché in un'aula di tribunale italiana un ispettore della Banca d'Italia, Parascandolo, dice che su Santorini e MPS la Banca d'Italia, cioè gli ispettori, cioè lui, sapevano tutto, quando la versione ufficiale è che poi Santorini e Alexandra escono fuori da una cassaforte, quando arriva anni dopo al posto di Mussari cambia il management. Ecco, questa roba qui dovrebbe essere con titoli e pagine intere sui giornali italiani. Allora, io che ho seguito per anni queste vicende non voglio nessuna giustizia di piazza, ho amato la Banca d'Italia nella mia vita come la più grande istituzione, però penso che questo coprire un dibattito che dovrebbe essere serio e approfondito, perché quello che è avvenuto a Siena è serio, quello che è avvenuto a Verona Vicenza ieri, il Barbagallo della Banca d'Italia ha detto la vigilanza non ha mai suggerito acquisizioni a Vicenza. Allora, io ieri ho ritwittato tutti i giornali italiani, a cominciare dal Sole, che hanno scritto per mesi coi titoli così: la vigilanza della Banca d'Italia dice alle due venete fondetevi. Quando dice non abbiamo mai suggerito a Vicenza fusioni, sta parlando di Banca Etruria, e anche questo, cioè il fatto che la Banca d'Italia avesse detto a Zonin prova a prenderti l'Etruria, lo abbiamo scritto tutti per mesi. Adesso improvvisamente siamo tutti impazziti e la Banca d'Italia ci dice che abbiamo preso lucciole per lanterne. Ecco, queste sono le cose che secondo me andrebbero seriamente dibattute. Invece vedo che fu confermato Visco, polvere sotto il tappeto. Stefano da Padova, prendi la parola. Allora, io sono contento di essere stato ricontattato, perché sono veramente arrabbiato per la vicenda delle banche venete, soprattutto di Popolare Vicenza, della che quale pensavi ho servito che ti la censurassi? Commissione da Radio Radicale ieri pomeriggio, sì, la commissione parlamentare, quando ho appreso che 3 ispettori della Banca d'Italia andati in Popolare Vicenza sono passati, spero che sia comprensibile, alla istituzione che dovevano controllare. E l'articolo della preso la disperazione più nera. Aggiungo, cambiando un po' argomento, che questo prospettato switch al nuovo digitale per i televisori. Sì, lo abbiamo raccontato ieri. Sì, esatto. Mi sembra una tassa da sceriffo di Sherwood. Ridiamo cioè, per non, amarezza. Non voterò, guardate, non voterò Stefano. Voterò mai più. Troverai cosa votare per dare voce ai tuoi sentimenti, però capiamo anche l'arrabbiatura. Un commento telegrafico, Oscar, perché poi pubblicitiamo. Penso che come i nostri ascoltatori, molti se avessero ascoltato ieri con l'audizione sarebbero rimasti, dico perplessi, ma voglio stare sull'understatement britannico, perché la posizione ufficiale della Banca d'Italia sul tema sollevato dal nostro ascoltatore, cioè ex dipendenti di primo rilievo, stiamo parlando per esempio del segretario del direttorio preso a Vicenza, la Banca di Vicenza, dice ma non hanno mai svolto funzioni di vigilanza direttamente occupandosi della Vicenza, come se dirigenti di quel livello di Banca d'Italia avessero avuto bisogno di prendere il dossier in mano. Era evidente che la banca li prendeva, come è avvenuto in altre banche finite nei guai, per la dote di relazioni di primissimo livello che portavano con il regolatore. Anche un cieco lo vede e non può rifugiarsi dietro l'argomento formale usato ieri. Mi dispiace mortalmente per l'affetto che porto alla Banca d'Italia dall'Istituto di Via Nazionale. Allora abbiamo Claudio in attesa. Forza Giannino, ultimo dei laici. Saverio da Sesto San Giovanni. E qui è veramente c'è il popolo di Oscar, ma ci dobbiamo fermare tutti per alcuni secondi per la pubblicità. Andiamo in chiesa e preghiamo. A pregare. Tutti a pregare. A pregare. Mattino. Caro Oscar, leggo dalla lettera di Anna Graham Hunter a Hollywood Reporter: una mattina entro nel camerino e Dustin Hoffman chiede l'ordine della coalizione e lui mi risponde con un gran sorriso e prendendosi il suo tempo: vorrei un nuovo sodo e un clitoride alla coca. Ecco, e vabbè. D'accordo. Cioè, ma come gli è venuto in mente? Ma veramente, gli è venuto in mente, come gli vengono in mente battute di questo tipo a milioni e milioni di maschi ogni giorno. Detto questo, non lo so dove vogliamo arrivare. Posso dirti una roba? Tentato di capire da dove nasce la cosa dei deputati Tories, la crisi del Partito Conservatore che ha portato anche alle dimissioni di un ministro perché aveva toccato un ginocchio, ne abbiamo parlato ieri, una giornalista nel 2012, cioè 20 anni fa, insomma, robe da matti. Allora, lì c'è tutta una lista di parlamentari conservatori che vengono, tra virgolette, in pubblico, coperti di guano perché di alcuni si dice si fa fare pipì addosso dai maschi di qua di là eccetera eccetera. Dopodiché perdonate, è una cosa fatta raccogliendo le cose delle loro assistenti. Allora, di questo qui non stiamo più però parlando, perdonami, per esempio di violenze, di abusi di potere. Stiamo semplicemente aprendo una specie di sentina per cui tutta una serie di persone decidono a distanza di anni di distruggere in pubblico delle persone, perché che cosa quell'uomo faccia con chi fa sesso se non è un abuso di potere tirarlo è fuori così è sottile, eppure è no, non è sottile, perdonami, no, ho capito, un conto è se tu sei un parlamentare abusi te, della tua segretaria, la tua collaboratrice, le dici se vuoi lavorare con me, allora accetto, sei uno da sbattere fuori e tantomeno puoi assumere e ricoprire incarichi politici. Ma detto questo, lì stiamo parlando di tutt'altro oramai, stiamo parlando di battute o di cose fatte nel privato delle camere da letto o comunque nel privato e fuori dall'esercizio dei tuoi poteri. Allora, io dico, attenzione, a me pare che siamo andati oltre, però non vorrei apparire come un difensore. Allora, buongiorno di... Luca e Oscar, vi dico io cosa penso della legge elettorale dei politici attuali in Parlamento, sono dei criminali politici, molto soft, Valdimiro, l'amico che ci segue tutte le mattine. Ah, Valdi, ma questo lo conosciamo bene. Alessandro Di Battista, noi abbiamo già parlato male di questa legge, penso che anche Di Battista ne abbia dette di tutti i colori. Buongiorno, ma però, Di Battista. Ma è Di Battista. No, perché io mi perdono Di Battista, perché prima quando ha annunciato Di Battista io credevo fosse l'aggiornamento che dopo che i politici del PD vanno nelle chiese a fare i comizi, oggi avevamo San Giovanni Battista addirittura, invece no, è Di Battista quello dei 5 Stelle, quindi ecco. Buongiorno, Alessandro, ma lei comizi in chiesa niente in questa campagna elettorale, ma non si sente un po' scavalcato dal PD? Mi sembra davvero una vergogna utilizzare luoghi. Qui c'è stato e l'altissimo l'ha punito. L'altissimo. L'altissimo l'ha punito. No. Adesso lo ricontattiamo al volo. Ovviamente c'è. Perché io sono curioso di capire le aspettative di Battista sulla grande sfida TV che ci sarà tra Di Maio e Renzi. Perché tu avresti immaginata possibile la grande sfida? Io ho detto la verità, no. E voglio anche capire, a questo punto dobbiamo anche chiedergli, così creiamo un po' di suspense, perché Di Maio ha rifiutato il duello con la Boschi, secondo te? Beh, questo sentiamolo dire, allora un criterio potrebbe essere: mi confronto o sfido il leader vero, cioè il leader vero del PD e non la sua dante causa retina. Però ecco questo Di Battista, devo... Eccoci qua. Eccomi. Stava criticando il PD in chiesa, è arrivato un intervento dall'altà. Esatto, un intervento divino. Ma quindi lei niente, neanche nel giro dello scooter? No. Perfetto. E mi piacerebbe Telese anche una presa di posizione un po' più forte da parte della Chiesa Cattolica, no? Perché è una vergogna utilizzare luoghi sacri per fare propaganda. Ma lei non lo farebbe neanche se glielo offrissero? Vieni, sali sul pulpito, è una parrocchia dei fedeli che ti ammira, no? No, come lei sa, io ho frequentato per anni e frequento la parrocchia, però non ci vado per ragioni politiche, ma per ragioni di fede, ci vado quando mi va a me privatamente. Senta, sa che in molti un po' invidiano questa sua paternità così bella, piena di selfie, di foto commoventi, si sente un po' come se la politica fosse molto più lontana? No, non questo, però la domanda è molto buona, cioè negli ultimi anni, sa, la fretta, i temi, anche la televisione, insomma, mi hanno senz'altro travolto. Ora che c'è un figlio, anche gli attacchi politici degli avversari mi sembrano acqua fresca rispetto a tutto quello che... Io sono attaccato pure il bambino, sono contento però, di sentirlo. Lo so, attacco il bambino, perdono, però io sono contento di sentirlo, che un politico con bimbi piccoli ragioni così. A me capita, in piccolo, sono uno qualunque, capita la stessa cosa. Ti ridimensionano e ti amplificano le priorità insieme, le due cose insieme. È proprio così. Poi per carità, chi come me fa il parlamentare in maniera poi piuttosto con ardore, io... definisco così, non è che questo l'abbia indebolito l'ardore, anzi io vorrei lasciare ancora di più un paese pulito e un po' più legale e onesto a mio figlio, perché non ha, ne ha diritto, insomma, guardandolo mi dispiace dover vedere che è nato in un paese così ingiusto. Allora le facciamo venire subito il malumore di prima mattina, perché il giornale a pagina 5, un'intera paginata contro i 5 Stelle, perché dice, cioè, in Sicilia hanno gli impresentabili pure loro. Vabbè. Già l'ha letto, vedi? Vedi di mattina presto. Adesso la doppia morale di Cancelleri. Molla un ex carabiniere condannato, ma conferma il cugino del boss. Che ne dice? Beh, posso dire soltanto una cosa. Poi i cittadini, ognuno, insomma, si faranno la loro opinione. Posso dire che il dramma del sistema mediatico italiano è che non sono i giornalisti. Io tra l'altro non ce l'ho mai avuta con i giornalisti e tanti li sosteniamo, tanti professionisti che si fanno il mazzo per pochi euro, però il giornale appartiene alla famiglia Berlusconi, punto, per cui ora sta in campagna elettorale, quindi tutto quel che dice è come se parlasse a Berlusconi, e quando parla Berlusconi, che l'hanno riesumato negli ultimi giorni, è disco rotto e ritorna a lanciare messaggi anche a qualche malfattore siciliano in maniera piuttosto chiara, quando dice cauzione, nessuno andrà in galera, ponte sullo stretto, ora ok alle intercettazioni, ma questo è il centrosinistra, ok al bavaglio sulle intercettazioni, insomma il giornale sta in campagna elettorale. Il problema sono gli editori impuri in questo paese, Telese e Giannino, cioè editori che oltre a fare gli editori hanno interessi economici, imprenditoriali e soprattutto politici. Caltagirone c'ha il Messaggero il Mattino ed è legato alla politica e interessi imprenditoriali. Beh, però c'è anche l'autonomia di tanti colleghi che lavorano nei giornali e hanno le spalle larghe. Sì, ma allora chiedo perché invece di rispondere con un'invettiva giusta contro gli editori impuri, non approfitta di questo spazio per dire che magari ci sono gli impresentabili anche negli altrui? Allora, perché deve accusare la stampa? Si figuri se non rispondo. Questo soggetto è appunto un ex carabiniere che è stato condannato a 2 mesi e quando la condanna è molto lieve neanche compare nel casellario. Noi quando candidiamo le persone chiediamo controllate il casellario, esatto, dato che costui ci ha mentito, oltre ad aver evidentemente portato avanti una condotta che gli ha procurato una condanna da carabiniere, l'abbiamo già cacciato dal movimento, ma ci abbiamo messo 8 minuti. E questo, sicuramente questo lo apprezzo, ma ci sono anche gli altri invece, quelli, perché poi conta anche il reato, forse è una lezione questa, non conta solo la condanna e magari può essere anche su un aspetto formale, ma conta perché cosa sei indagato. Io ieri sentivo una candidata del centrodestra che aveva accuse per peculato, insomma sono accuse ben più gravi. Questo sì, infatti noi abbiamo un codice etico che prevede l'immediato allontanamento anche se ci sono delle indagini per reati di mafia, evidentemente, che uno subisce. Mentre invece se tu vieni rinviato a giudizio per diffamazione, beh, alle volte certe denunce che io mi becco, certe querele che mi becco per diffamazione, io le considero una medaglia al valore. Per cui è evidente quello che dice Telesi, bisogna sempre, per questo infatti abbiamo prodotto un codice etico che prevede le espulsioni in determinati casi, invece l'attesa in altri casi quando si tratta per esempio di reati di opinione. Franco da Prato, pronto Franco, Franco c'è? Mi sente? Sì, vada. No, io volevo intervenire per quanto riguarda la riforma Fornero, perché quando sento Giannino, io condivido sempre, diciamo, quasi tutto quello che dice. E sulla riforma Fornero lo sento che la difende a spada tratta, non mi trovo, perché quando si deve vedere persone che hanno iniziato, io parlo per me ma come tanti altri, a lavorare nel 1979 e ne ho 50, ho per 54 anni, e purtroppo i primi anni non me l'hanno versati da ragazzino di contributi, comunque dall'82 ho contributi e devo lavorare versando 45 anni di contributi per avere forse 1000 euro di pensione. Quindi lavoro fino a 64 anni con 45 anni di contributi. Quando a 67 andranno tutti, anche non ho mai fatto nulla, gli daranno 500 euro, la promessa di qualcuno, 1000 euro. Di Berlusconi, diciamo il nome di Berlusconi. Allora facciamo rispondere Di Battista, se lo manderebbe, sempre risposta che non crede ai politici, e poi Oscar, lo manderebbe in pensione Franco da Prato, Di Battista, lei? Ma ci mancherebbe altro, dopo 45 anni. Il dramma della riforma Fornero e comunque delle manovre che sono state fatte sui pensionati per mandarli in pensione sempre più tardi, io poi lo guardo anche dal punto di vista dei giovani che non possono entrare nel mercato del lavoro. Poi le argomentazioni relative, insomma, che hanno i sostenitori di questa riforma Fornero, che io ricordo è stata votata da tutti, onestamente non dalla Lega, e questo non è nessun endorsement, Teresa, è soltanto verità storica. Sì, sì, certo. Però la Meloni l'ha fatta, l'ha votata. No, ma io sono d'accordo con lei, detesto la Fornero, ma la domanda che ho d'obbligo farle è: ma perché non presentate una copertura trovando le risorse per dire allora se dobbiamo mandare in pensione? Abbiamo presentato decine di emendamenti appunto per trovare coperture sulla riforma della Fornero, ma i soldi ci stanno. Io ci sono. Questo che dico ai cittadini, sono 5 anni che ne vedo miliardi buttati a destra a manca. Faccio un esempio per Oscar che interviene ora. Qual è un esempio di miliardi da recuperare subito per la copertura che lei vuole? Sto parlando a mi ha chiesto a me o a Giannino? No, no, a lei, visto che ha detto. Io ho visto, al di là di. Guardi, non voglio entrare nel merito, però io ho visto in un consiglio dei ministri che è durato 14 minuti di Gentiloni trovare 5,5 miliardi di euro e regalarli a Intesa San Paolo per beccarsi due banche venete, tra l'altro fatte fallire da imprenditori e anche con la compiacenza della politica veneta. No, per beccarsi per la precedenza, la parte buona di quelle banche, bravo, esatto. Bravo. Pagata, tra l'altro, Giannino, le due banche pagate 1 euro, esatto, entrambe, la parte cioè 0,50. Buona. Allora i quattrini ci stanno, Telesi, no? Dipende soltanto da una scelta politica relativa a dove impiegarli. Federico da Pordenone. Buongiorno, sì, niente, volevo brevemente intervenire dopo che avevo visto anche ieri sera Di Maio alla 7. Niente, brevemente volevo dire che innanzitutto l'ho trovato molto rancoroso nei confronti di Salvini, e approfitto che c'è Di Battista per dire che nella realtà molte delle cose che secondo me la base degli elettori pensano potrebbe essere in comune tra i due partiti, per cui Cioè, lei, è interessante. No, aspetti, perché così facciamo la domanda di Battista. Lei non si stupisce quindi che Salvini abbia detto qualche giorno fa, ma Berlusconi se lo vota lui il governo col PD dopo, perché io piuttosto farei un colpo di telefono ai 5 Stelle, perché quello che sta dicendo lei è che ha senso questo, ho capito bene? Sì, ma poi volevo anche aggiungere un'altra cosa, poi però sul discorso abusivismo di necessità, oppure sul discorso dobbiamo valutare bene i numeri dei forestali, stiamo un attimino attenti, perché all'urlo onestà, probabilmente forse certi di questi, hanno approfittato di una certa situazione per andare in un posto per necessità o meno, però i numeri lì sono evidentemente fuori controllo. Molto chiaro, due però domande entrambe complesse per Di Battista. La prima, allora, il nostro ascoltatore, ti ringrazio, l'abusivismo è un cancro in tutta Italia, in alcune regioni in maniera particolare, e va affrontato come un cancro. E, tanto è vero, noi abbiamo scelto come assessore quel sindaco, l'ex sindaco di Licata, che è stato cacciato di fatto dai suoi stessi consiglieri proprio perché faceva una battaglia antiabusivismo. Nella mia idea di Stato e di giustizia sociale, io prima butto giù case di persone che magari sono la seconda o terza casa quando sono abusive. Questo non significa non occuparsi delle altre. Una scelta di priorità. Dato che ognuno deve avere una casa per vivere, io porto avanti una battaglia fortissima contro il cancro dell'abusivismo, anche contestualmente ad una battaglia sull'edilizia popolare, perché per me i cittadini hanno diritto ad avere un tetto sopra la testa. Per quanto riguarda invece Salvini, insomma, io ieri l'ho visto con quei soggetti lì, cioè sono 3 anni che ci strizza l'occhio, non è soltanto l'altro ieri che ha detto io parlerei col Movimento 5 Stelle, ci prova, siamo la prima forza politica del paese, su qualche tema c'è anche, è vero che c'è convergenza, ma per me la Lega fa parte della vecchia politica, io sono entrato nel Movimento proprio perché tra le regole dello statuto c'era scritto il Movimento non fa alleanze, ma che mi devo alleare con la Lega che oggi prova a rifarsi una virginità togliendo il nome Nord? Però dopo il voto, se lei dovesse scegliere fra veder nascere un governo di centrodestra con PD e Forza Italia e uno vostro Lega 5 Stelle, potrebbe ripensarci? Terese, fino a prova contraria siamo una Repubblica parlamentare noi, per cui qualora dovessimo vincere le elezioni il Presidente della Repubblica ci dovrà dare per forza l'incarico di governo, ci presentiamo alle Camere come dice la Costituzione, presenteremo un programma di governo alle Camere e il programma, già ve lo dico quel che prevederà, misure straordinarie per la piccola e media impresa con l'abolizione dell'IRAP per la piccola e media impresa e un sostegno alle famiglie grazie al reddito di cittadinanza, delle leggi che aspettiamo da 20 anni come una vera legge anticorruzione, una vera legge sul conflitto di interessi che manca, e poi intervenire anche per quel che concerne la sanità pubblica. Poi vediamo chi ci sta, anche sulla riforma Fornero, vediamo chi ci sta, vedremo se da destra a sinistra si assumeranno la responsabilità di non votare un programma di governo del genere. Poi se avremo la maggioranza, bene, se non avremo la maggioranza non so che farà il Parlamento, se proveranno a fare l'inciuso oppure si andrà al voto come in Spagna. Michele da Napoli, abbiamo fatto il giro d'Italia solo su Radio 24 a questa velocità, da Vicenza a Napoli, via. Salve, buongiorno. Michele. Io volevo soltanto evidenziare in tutta questa storia, diciamo, d'Italia, che il centro sviluppo di Unilever Algida a Caivano, quindi nella terra dei fuochi cosiddetta, sta chiudendo nel silenzio generale e si sta spostando diciamo tutto ciò che è l'eccellenza campana, per quanto riguarda ovviamente questi prodotti, in Inghilterra. Perché? E questo ovviamente, perché? Perché hanno messo in atto un licenziamento collettivo, perché oggi così si fa, è più facile licenziare 50, 60, 100 persone piuttosto che una. A questo poi mi vorrei ricollegare un attimo a ciò che diceva prima Oscar Giannino per quanto riguarda le pensioni, il prepensionamento. Qui nessuno, secondo me, neanche io che ho 45 anni, voglio andare in pensione a 50, 55. Il punto è che le aziende non ti vogliono tenere fino a 67 anni. Il punto è proprio quello. Comunque, vabbè, questa è una divagazione. Il punto principale è che nel silenzio generale un centro d'eccellenza nella terra dei fuochi sta chiudendo. Cioè è un'eccellenza di 50 anni. Qui è nato il cornetto, è nato il cucciolone, sono nati i gelati più importanti. Davvero sono nati là? Io non lo sapevo. Sì, Io sono un grande appassionato di cucciolone. Sono nati a Caivano. A Caivano. Va bene. Bene. Giannino ride, ma il cucciolone ha quella splendida armonia fra il biscotto friabile e le creme non fa che parte del mio... lo contengono. Di Battista, qual è il suo gelato preferito? Beh, diciamo che mi piacciono più gelati artigianali. Comunque a questo ragazzo sollevava un problema enorme anche certo, per me, relativo a quello del silenzio un po' generale su alcune problematiche, su alcune crisi aziendali, perché io noto che ultimamente l'idea che ci vuole dare un po' il sistema, diciamo, partitocratico, chiamalo così, partiti assieme dell'Italia, che tutto stia migliorando quando continua ad essere il fanalino di coda sotto tutti i punti di vista dell'Europa. Poi io non conoscevo per esempio questa storia, e l'ascoltatore si diceva che se ne andranno in Inghilterra, la prima cosa alla quale ho pensato è, ci avevano detto che dopo la Brexit sarebbe crollato il Regno Unito. Invece evidentemente questa non no no ma questo veda che in Gran Bretagna non si è potuto sbattere la testa, infatti, per tornare indietro. Ma detto tutto questo, però è uno dei, purtroppo, perché ricordiamolo, che i tavoli di crisi aperti al MISE di aziende importanti, piccole ma soprattutto medie e spesso grandi, sono ancora quasi 200, quindi questo bisogna dirlo, che in Italia è la lunga coda della crisi è tutt'altro che finita, per essere chiaro, perché sono in ballo decine di migliaia di posti complessivamente in vicenda che sono aperte al MISE. Quindi ci sono molte multinazionali che, a differenza di quello che dice la politica e chi ha governato in questi anni, continuano a dire: signori, voi dite che abbassate le tasse, non è vero, signori, voi dite che semplificate la pubblica amministrazione, non è vero, signori, che cosa volete che vi diciamo? Spesso alcuni di questi casi dipendono anche da accordi che erano stati sottoscritti per la semplificazione o per l'infrastrutturazione per fare le aziende, che poi non sono stati attuati, perché poi bisogna, prima di dire la colpa è solo dell'impresa, molto spesso sono le imprese che sbagliano i conti e poi non sanno stare in piedi e vanno solo dove hanno i costi più bassi, vero, ma tante altre volte questo paese firma degli accordi, dice venite qui e poi non li mantiene grazie alla PA. Domanda di un ascoltatore provocatoria, e chiede Di Battista, ma lei lo candiderebbe un condannato per uso di cannabis? Marco da Cosenza. Noi abbiamo presentato una legge, il primo firmatario è Vittorio Ferraresi, tra l'altro un deputato della Commissione Giustizia, appunto per la legalizzazione delle droghe leggere. Per noi è anche un modo telese per contrastare le mafie e per aumentare tra l'altro gli introiti allo Stato stesso, e un modo anche per contrastare tra l'altro la diffusione stessa della marijuana e comunque della cannabis. Bene. Questa è una proposta del movimento. Oggi siamo a Palermo stasera con Bianca e Grillo. Venite anche voi. E tutti a Palermo e tutti a Lagos. Alle 21 in piazza. La risposta che cosa al patto dell'arancino. Quando ha sentito di Grillo che magnificava Lagos, la capitale. Sì, l'ho saputo ieri nella trasmissione televisiva sulla 7. In realtà ero sul palco, però non l'avevo ascoltato quel passaggio. E vabbè, si è sbagliato. Però non abbiamo mai votato leggi incostituzionali noi. Bene. Grazie Alessandro Di Battista. Oscar, l'ultima cosa che ti segnalo è questa: Zonin si è spogliato di tutti i beni dopo sappiamo, il crack della Popolare di Vicenza, ma oggi Belpietro lo pizzica che fa pubblicità al suo super hotel nei Castelli ad Edimburgo e tra l'altro le imprese dei figli all'estero stanno andando benissimo. Io però di questo io non confondo le responsabilità dei figli, ma certo gli asset sono di famiglia e derivano da quello che Zonin padre ha fatto. No, detto tutto questo, io voglio solo dire una cosa: da dicembre lo Stato riprende l'esazione delle tasse alle imprese nelle aree terremotate, dove le macerie sono tutte a terra e dove due terzi delle casette non ci sono. Uno Stato che fa una cosa simile non ha dignità nel senso della misura. Mi dispiace, merita tutto il disprezzo, perché vuol dire che non ha proprio l'ABC. Uno Stato che non fa quello che deve per rimuovere le macerie e riprende l'esazione delle tasse alle imprese è spregevole. Spregevole. Non dovrebbe riprendere, Oscar. No, fino a che le macerie poi restano per terra direi proprio di no, perché è venuto meno all'ABC del suo dovere pubblico. Condivido al 100%. 24 mattino torna lunedì. Dormite nel weekend, ci rivediamo alle 6.